Antonio, Bombolino. Sì, Bombolino sarei tu. Bombolino sarei tu. E chi non te lo dice? E allora, cosa si dice in questa calda giornata? Mamma mia. Calda Marco, calda, qui sto stampando un'altra scritta e ti puoi immaginare. Ti puoi immaginare col piatto a 60 e l'estrusore a 205. Insomma, scalda quella macchinetta, dai. Sì, scalda sì. Per forza deve scaldare per sciogliere il filamento. Il piatto deve essere caldo per rimanere attaccato al filamento. Vabbè, che ci vuoi fare? Giornata moscia, oggi non sono uscito, non ho quasi, praticamente non ho cucinato, abbiamo mangiato roba pane imbottito, pane con panattico. E bisogna mangiare adesso verdure, anche se dopo mezz'ora c'è fame di nuovo, oppure a chi piace la pasta fredda, a me non mi piace, a chi piace la pasta fredda. Oh, oddio, io l'ho provata la pasta fredda. Sì, tutta sfiziosa, con l'olivetto e così, però non lo so, non mi... È come il gelato, è come se uno volesse mangiare il gelato caldo. Il gelato è freddo, va mangiato freddo, la pasta calda, certo non budendi, ma un po' tiepida deve essere. Fredda fredda, boh, non mi si vara. Neanche a me fredda, c'è gente che se la mette in frigo, per carità. Cioè non è perché c'ha i pomodorini, il mais, chi ce lo mette, tutte che cose, si abbona. Sempre la pasta fredda si mangia niente. E io l'ho provata così, per esempio l'insalata di riso, vabbè, quella fredda piace, però non fredda dal frigo, perché sennò mi si pianta sullo stomaco. Che sia un freddo, diciamo una temperatura ambiente più che freddo, ecco. E io l'ho provata con la pasta fredda, presa dal frigo, però... Non NCS, non ci siamo. Poi vabbè, quello è un gusto personale, a qualcuno piacerà, a me un po' meno. Io l'ho mangiata perché non c'era altro, io per dovere ho detto io se no mi tocca inventarmi altro, però dovendo scegliere. Infatti, no, insalata di riso neanche a me piace dal frigo, temperatura ambiente oppure leggermente tiepida. Poi a me piace pulizia maionese pure. Chissà se oggi entra qualcuno, oggi è sabato, chi può esce, va in giro, va a ciuppare, eccetera, va a fare festa. Nel pinnetto. Per esempio, c'era la festa del vino dove? Sorso o Sennori? Ma è già passata o era oggi, tipo domani? Non lo so, forse che non lo so. Marco, rimango un attimo in quel Rix che adesso finisce questa roba, poi la devo preparare come ho fatto l'altro. Chiaro, ma sono qua, se hai bisogno sono qua. Chiaro, chiama pure. Fai, io intanto mi devo pigliare il gelato adesso. A dopo, ciao. E pigliate il gelato, sì, sì. Ciao Natali. Ciao Marco. Come va? Un po' meglio. Meno male, perché sennò veramente è una tortura. Io ci sono a casa perché, non so, ho dormito molto, mi sono svegliato tutto suonato, che alle 3 di pomeriggio quasi, che non capivo niente. Alla fine mamma aveva già premangiato, io alla fine ho fatto roba, pane e companati, come dovevo fare da ieri sera la frittata di cipolle, poi ho detto no, poi chi ne ha voglia, c'avevo lo stomaco anche chiuso, e quindi niente. Adesso per il gelato me lo prendo. Quello da prendere, è presente quella specie di paletta tonda che ha, che quando lo metti nel bicchiere esce tondo, cioè queste testoline di gelato tonde. No, non ce li ho presenti, ma vabbè, c'è il gelato. Signori, come vi ha detto. Ma esatto, tanto che poi mi ascolto. Cerco di farmi passare questi dolori. L'altro giorno sono finito al pronto soccorso addirittura. E come mai? Entrando e pisciando sangue, è stato. Mamma mia. comunque speravo che gli antidolorifici che dessero fossero migliori, come ti avevo detto, una roba buona, invece forse sai cos'è? Non so se è per il diabete, per la tua condizione non si fidano. Non si fidano, però non è che non si fidano per te. Non si fidano, non sia che poi rischiano il loro QSO, capito, il loro posto. E tu a soffrire. Bubu. E allora? Si sono telefonati con quelli dell'urologia e mi hanno fatto la pulizia della vescica. Mi hanno fatto un'ecografia. Le analisi del sangue e più mi hanno messo il catetere, sono col catetere, mamma mia. Dove vuoi arrivare? Oia, ci ho distrutto, Marco. Ma cosa vuol dire distrutto? Me l'immagino. Si sente, cos'è quella, cosa c'è, qualche cosa di meccanico o è rumore da fuori? Sarà rumore da fuori, non lo so. Io, il ventilatore che sta toccando le pale e non, io non mi tocca alzarmene per metterlo a posto. Stanno toccando le pale del coso, del ventilatore. Era un rumore tipo a mitraglia. Allora, oggi sto provando il 5005 dopo un bel po' di tempo e ho trovato il cavo del mic originale tutto sbucciato. Si è sbucciato zona spinotto, poi l'ho trovato sbucciato tra lo spiralato e il microfono vero e proprio, sia l'attacco dello spiralato sia l'attacco del microfono. Sfogliato, tipo pane Carasau se n'è andata la guaina, capito? Sono materiali del cavolo che stanno usando. Conta che questo ce l'avrò una decina d'anni ormai, Penso di averlo presentato nel 2005, una cosa del genere. Se non sono 10, sono 9 anni, dai. Però sì, stanno usando per tutti questi baracchini, questi cavi sottili microfonici, hanno la stessa guaina, che dopo una decina d'anni si spappola e esce tutto a pezzi. Vabbè, c'ho il microfono più serio, normale, da mettere, sempre a capsula normale, no? 500 ohm. Era per vedere se funzionava tutto. Va bene, adesso vado in cucina un attimino, dai, vediamo se entra qualcuno, anche se dubito, il bombolo doveva andare, mi pare, Oristano, l'aveva detto ieri, e non so se poi rimanesse lì tutto il giorno per lavoro, vediamo. Rimarrà lì sì, perché devono smontarlo, cioè la storia. Prima lo devono piazzare e poi lo devono smontare. Ma cos'era, un palco musicale, no? E penso di sì, lui fa quel lavoro lì. Ma per un periodo aveva fatto anche panini Antonio, o sbaglio, tipo alle feste. No, questo non te lo so dire la verità. No, forse ho capito male io, va bene. A dopo, io lascio acceso qua, vediamo se entra qualcuno. Sei solo oppure sei accompagnato? Per il momento sono accompagnato, poi dovrà andare mia moglie dall'amica quando la chiama. Sarò solo. Vabbè dai, sono qua. Eia, a dopo. Von CAT habe ich mir eine Kupplung gemacht. Ich habe jetzt hier gerade eine Hand drauf, Frau dran. Ja, pass auf, ich kann ja jetzt spaßeshalber mal das hier umweisen. Ich habe ein Originalmikrofon in Ordnung, da sind ja Nette dran. Rumschiffgang, da sind ja immer diese langen Gummihülsen drauf. Und die war bei dem Mikrofonstecker angegriffen. Naja, und dadurch hat das Mikrofonkabel immer gelitten. Und da habe ich das alles verlegt. ich habe sie ja mit diesem Majonettverschluss, habe ich noch so oder gehabt. Ne? Aber dann habe ich einfach nur das Gehäuse davon genommen. So. Daran ist jetzt mit der Kupplung also ungefähr 30 cm mehr Mikrofonkabel. Nur dieses Mikrofonkabel, das kannst du vergessen. Ich sag ja, habe ich mir davon mal 2 Meter gekauft, in der RCE, wie es den noch gab. Das ist 30, 35 Jahre her und dann kaufe ich das Kabel. Ja, das kannst du vergessen. Wenn du das lötest, dann bewegst du zweimal den Stecker, weil du den auseinandernehmen musst, brechen dir dann die Kabel. Das ist zu dünn, das ist zu fein, das kann man total vergessen. Dann nehme ich immer morgen die Stabo wieder mit, die Stratofon, ja, aber je nachdem wie es ist, ja, wenn die Kiste morgen da läuft und ich höre damit alles und die tut da morgen ihren Dienst, dann lasse ich die morgen mal, tausche ich die Geräte zwischendurch. Ja, die Kiste, die habe ich ja immer mit. Ja. Die habe ich ja dann immer mit. Und, hast du dir das Video mal angeguckt? Hör mal, ich krieg eine Krise. Ich habe auf YouTube, habe ich ja ein Video hochgeladen. Ne? Und da hat er mir aus dem Video ein 5-Stunden-Video gemacht. Jedes Mal. Obwohl ich das am PC schon gemacht hatte. Ne? Nur mit den über 2,5 Stunden. Der hat ja die Videos einfach wieder aneinander gesetzt. Weißt du, den Vorspann ein bisschen gelassen oder was? Einfach wieder aneinander, weißt du, und dann nochmal aneinander gesetzt. Ja, das, da musst du mal gucken, das ist Bärchen auf YouTube, ne? Oder Kanal 6AM Nostalgierunde, könnte man das eventuell auch so finden. Ne? Musst du mal, ich habe das jetzt nochmal geschnitten, das Video, ne? Verarbeitet. Ich habe einfach jetzt die Hälfte abgeschnitten, ne? Und, aber da fehlt jetzt natürlich der Nachspann. Ja, das ist das Problem. Jedes Mal, wenn ich das Video nämlich wieder hochlade, ich habe das insgesamt dreimal hochgeladen und YouTube hat da jedes Mal ein 5-Stunden-Video draus gemacht. Ja, nee, wunderbar. Das hat ja jetzt alles gut geklappt. Ja, ne? Das freut mich auf jeden Fall, dass das funktioniert. Ich schließe jetzt auch eben wieder die 4012er an, Nordpol. Ne? Und dann tue ich die Kiste schon unten hinstellen für morgen. Jo, tschüssi. Wer ist da? Ja, ich kann dich hier hören. I can hear you. I can hear you. I can hear you in Germany. Jo, my name is Gerald. Gerald, Golf Echo Romeo Alpha Lima Delta. My station name is 13 Charlie Tango 0068. Gerald. Ah, fine. Your time is 5 and 9. My country is 13 kilometers south Cologne. Bye-bye, 73. Das hier wird nicht. Mit der alten Grundig mal eben die X hier. Yo, meine Herren. Bye-bye.